Fu compito di Margaret cercare una cameriera per aiutare Dixon, che per prima aveva deciso di impegnarsi per trovare la persona giusta alla quale affidare tutti i lavori domestici più pesanti. Tuttavia, l'idea che Dixon aveva delle giovani aiutanti era da ricondursi al ricordo delle composte alunne più grandi della scuola di Helston, che erano fin troppo orgogliose per poter andare in canonica in un giorno di lavoro e che trattavano la signora Dixon con tutto il rispetto che avevano per il signore e la signora Hale, soprattutto perché ne avevano terrore. Dixon era ben consapevole di questo timore reverenziale nei suoi confronti e non le dispiaceva, ne era lusingata come Luigi XIV era lusingato dai suoi cortigiani che si riparavano gli occhi dalla luce accecante della sua presenza. Nulla se non il suo fedele affetto per la signora Hale avrebbe potuto farle sopportare la libertà dei modi e la sgarbatezza con cui tutte le ragazze di Milton che si presentavano per il posto di cameriera reagivano ai suoi interrogatori per verificare le loro competenze. Giungevano persino al punto di essere loro a fare le domande, avendo per prime dubbi e paure riguardo alla puntualità di pagamento di una famiglia che viveva in una casa da 30 sterline l'anno e che tuttavia si dava delle arie e aveva due domestiche, una delle quali così autorevole e possente. Il signor Hale non era più visto come il reverendo di Helston, ma come un uomo che ponderava le sue spese. Margaret era stanca e insofferente dei resoconti che Dixon riportava continuamente alla signora Hale su queste sedicenti cameriere. Non che fosse disgustata dai modi rozzi e scortesi di queste persone, non che rifuggisse con schizzinosa arroganza il loro modo confidenziale di attaccare bottone e che fosse risentita per la loro evidente curiosità circa i mezzi e la posizione di qualsiasi famiglia che viveva a Milton, sebbene non fossero occupate in nessun tipo di mestiere. Tuttavia, tanto più Margaret ne avvertiva l'impertinenza, maggiore era la possibilità che fosse zittita sull'argomento. E poi, ad ogni modo, se si fosse presa a lei la responsabilità di cercare una cameriera, avrebbe potuto risparmiare alla madre l'elenco di Dixon di ogni delusione e di ogni insulto inventato o reale che fosse. Di conseguenza, Margaret faceva avanti e indietro tra macellai e droghieri alla ricerca di una ragazza perfetta e ridimensionava le sue speranze e aspettative settimana dopo settimana, poiché trovava difficile, in una città industriale, incontrare qualcuna che non preferisse i migliori salari e la maggiore indipendenza che dava il lavoro di fabbrica. Era una specie di prova per Margaret uscire da sola in quel luogo frenetico e pullulante di attività. L'idea che aveva del decoro e l'incapacità di essere autonoma portavano la signora Shaw a insistere perché Edith e Margaret, qualora fossero andate più in là di Harley Street o delle case vicine, venissero sempre accompagnate da un lacchè. Margaret si era segretamente ribellata a questa regola della zia che poneva limiti alla sua indipendenza e si era doppiamente goduta le libere passeggiate e le escursioni della vita in campagna proprio perché contrastavano quella imposizione. Procedeva con passo lungo e coraggioso, mettendosi a correre di tanto in tanto se era di fretta, rimanendo talvolta perfettamente immobile ad ascoltare o a osservare qualche creatura selvatica che cantava tra le foglie nei cortili o che sbirciava con occhi intelligenti e vivaci fuori dal sottobosco o dalla ginestra aggrovigliata. Non era facile passare da un movimento e una quiete simili, regolati soltanto dalla sua mite volontà, al passo composto e regolare che bisognava tenere per la strada. Tuttavia, avrebbe potuto ridere di se stessa per il fastidio che questo cambiamento le dava se non fosse stato accompagnato da un disagio ancora più profondo. La parte della città in cui si trovava Crampton era soprattutto una via di passaggio per gli operai delle fabbriche. Nelle stradine secondarie lì intorno c'erano molti stabilimenti dai quali fuoriuscivano fiumi di uomini e donne 2 o 3 volte al giorno finché non ebbe imparato il loro orario di entrata e di uscita. Margaret aveva la sfortuna di imbattersi costantemente in loro. Arrivavano camminando in fretta, con visi impavidi e insolenti, ridendo rumorosamente, facendo battute mirate in particolar modo a quelli che sembravano essere loro superiori per rango o funzione. Inizialmente Margaret era un po' spaventata dalle loro voci sguaiate e dalla loro noncuranza di tutte le comuni regole di cortesia in uso per strada. Le ragazze, in modo rozzo ma non ostile, facevano audaci commenti sul suo abbigliamento, toccavano persino il suo scialle o la sua veste per accertarsi del tipo di stoffa, anzi un paio di volte le fecero domande su qualche articolo che ammiravano in particolare. Dimostrarono una fiducia così naturale nella sua capacità femminile di comprendere quella loro passione per i vestiti e nella sua bontà, che fu lieta di rispondere a quelle domande non appena l'ebbe capite e abbozzò un sorriso ai loro commenti. Non la infastidiva incontrare ragazze, per tante o poche che fossero, nonostante il loro vociare e la loro esuberanza. Ma alternava paura e rabbia contro i lavoratori che facevano commenti non sul suo vestito ma sul suo aspetto, con gli stessi modi aperti e arditi. Lei, che fino a quel momento aveva inteso anche l'osservazione più raffinata sul suo aspetto fisico come un'insolenza, fu costretta a sopportare l'aperta ammirazione da parte di questi uomini che non avevano peli sulla lingua. Ma proprio quella schiettezza indicava che non volevano in nessun modo ferire la sua delicatezza, e lei lo avrebbe percepito se fosse stata meno spaventata da quel chiassoso disordine. Dal suo timore fuoriusciva un lampo di indignazione che la faceva arrossire, e i suoi occhi scuri si infiammavano nel sentire alcuni dei loro discorsi. Eppure c'erano altre loro espressioni che, una volta raggiunta la tranquilla sicurezza domestica, la divertivano e la irritavano allo stesso tempo. Per esempio, un giorno, dopo aver superato un gruppo di uomini, molti dei quali avevano, come accadeva di consueto, manifestato a voce alta il desiderio di averla come fidanzata, uno di quelli che si trattennero aggiunse: «Il vostro bel visino, ragazza mia, mi rallegra la giornata». E un altro giorno, mentre senza accorgersi sorrideva per qualche pensiero passeggero, un operaio di mezza età e malvestito si rivolse a lei dicendo: «Fate bene a ridere, ragazza mia, molte sorriderebbero con quel visetto così carino». Quell'uomo sembrava così stanco e segnato dalle preoccupazioni che Margaret non riuscì a far a meno di rispondergli con un sorriso, contenta di pensare che il suo aspetto, così com'era, doveva aver avuto il potere di evocare un pensiero piacevole. Lui sembrò comprendere il suo sguardo di simpatia, e un mutuo riconoscimento si stabilì tra di loro ogni volta che per caso le loro strade si incrociavano. Non si erano mai scambiati parola, a parte quel primo complimento, non si erano mai detti nulla, eppure in qualche modo Margaret aveva per quest'uomo un interesse maggiore che per qualsiasi altra persona a Milton. Un paio di volte di domenica lo vide camminare con una ragazza, evidentemente sua figlia, e se possibile ancora più malconcia di lui. Un giorno Margaret e suo padre si erano spinti fino ai campi che circondavano la città. Era l'inizio della primavera e lei aveva raccolto qualche fiore di siepi e fossi, violette, favagelli e simili, con un tacito lamento del cuore a ricordo della dolce ricchezza del sud. Suo padre l'aveva lasciata per andare a Milton a sbrigare alcuni affari, e sulla strada verso casa incontrò i suoi umili amici. La ragazza osservava i fiori con sguardo nostalgico, e mossa da un improvviso impulso, Margaret glieli offrì. I suoi pallidi occhi chiari si illuminarono mentre li afferrava, e suo padre parlò per lei: «Grazie, signorina. Beh, si troverà assai belli questi fiori, sicuro, e io apprezzo molto la vostra bontà. Non siete mica di queste parti, vero?» «No», disse Margaret con un leggero sospiro, «sono del sud, dell'Hampshire», proseguì con un leggero timore di ferire la sua consapevolezza di essere ignorante utilizzando un nome che lui non conosceva. «Mi sa che oltre Londra, non è vero? Io vengo dai dintorni di Burnley, 40 miglia più a nord, e adesso, vedete, nord e sud si sono incontrati e sono diventati come amici in sto postaccio pieno di fumo». Margaret aveva rallentato il passo per camminare accanto all'uomo e a sua figlia, la cui debolezza incideva sull'andatura. Si rivolse alla ragazza e la sua voce aveva un suono dolce, compassionevole, mentre le parlava, che toccò il padre dritto al cuore. «Mi dispiace che non siate molto in salute». «No», disse la ragazza, «e non lo sarò mai». «Sta arrivando la primavera», disse Margaret, come per suggerire pensieri piacevoli e speranzosi. «Né la primavera né l'estate mi possono far bene», sussurrò la ragazza. Margaret alzò lo sguardo verso l'uomo, quasi aspettandosi da lui una smentita, o almeno qualche commento che smorzasse la totale disperazione di sua figlia, ma invece aggiunse: «Dice la verità, mi dispiace, purtroppo è messa male». Dove andrò? Ci sarà la primavera, i fiori e amaranti e vesti lucenti. Povera ragazza, mormorò il padre. Non ne sono mica tanto sicuro io, ma è un conforto per te, povera ragazza, poverina, povero padre che sono. E succederà presto. Margaret rimase sconvolta all'udire queste parole, sconvolta ma non disgustata, anzi colpita, interessata. Dove vivete? Credo che abitiamo vicino, ci incontriamo così spesso su questa strada. Abitiamo al numero 9 di Franzen Street, seconda svolta a sinistra dopo che avete passato il Golden Dragon. E qual è il vostro nome? Non devo dimenticarmelo. Non mi vergogno mica del mio nome. È Nicholas Higgins. Lei è Bessie Higgins. Cosa lo chiedete a fare? Margaret fu sorpresa da quest'ultima domanda, poiché a Helston sarebbe stato sottinteso, dopo le informazioni che aveva chiesto, che la sua intenzione fosse quella di andare a far visita a ogni povero vicino di cui aveva domandato nome e indirizzo. Pensavo, beh, avevo in mente di venirvi a trovare. All'improvviso quasi si vergognò della sua offerta, poiché non sapeva motivare il desiderio di farlo, al di là di un garbato interessamento per un estraneo. Tutto a un tratto le sembrò un atto insolente, lo leggeva anche negli occhi dell'uomo. Ah, non sono uno che gli piace tanto avere estranei per casa. Ma poi, intenerendosi quando vide che lei arrossiva, aggiunse: Voi siete di fuori, come si dice, non ci avrete tante conoscenze qui. E poi avete dato dei fiori alla mia figliola, con le vostre mani. Venite pure se volete. Margaret era in parte divertita e in parte infastidita per questa risposta. Non era sicura di voler andare dove il permesso le era stato concesso come un favore, ma quando giunsero alla svolta per Francis Street, la ragazza si fermò un istante e disse: Non dimenticatevi che dovete passare a trovarci. Sì. Disse il padre impaziente. Ci verrà. Adesso è un po' scocciata perché pensa che potevo essere più educato, ma le passerà e verrà. Il suo bel visino è come un libro aperto per me. Vieni, Bess, c'è la campanella della fabbrica che suona. Margaret andò a casa, pensando ai suoi nuovi amici e sorridendo della capacità dell'uomo di comprendere quello che le stava passando per la mente. Da quel giorno Milton divenne un luogo più luminoso per lei. Non era per le lunghe e ventose giornate di sole primaverile, né perché col tempo si stava adattando alla città in cui abitava, era perché vi aveva trovato un interesse umano. 9. Cambiarsi per il tè. Il giorno successivo all'incontro con Higgins e sua figlia, il signor Hale salì nel piccolo salotto al piano di sopra, un'ora insolita. Si avvicinò a diversi oggetti nella stanza come per esaminarli, ma Margaret capì che era soltanto uno stratagemma per nascondere un certo nervosismo, un modo per rimandare qualcosa che desiderava e allo stesso tempo temeva dire. Alla fine gli riuscì. Mia cara, ho invitato il signor Thornton per il tè stasera. La signora Hale se ne stava comodamente nella sua poltrona, appoggiata all'indietro, con gli occhi chiusi e un'espressione di dolore sul volto che le era diventata abituale negli ultimi tempi. Tuttavia, si sollevò con il suo solito tono lamentoso alle parole del marito. Il signor Thornton? Stasera? Oh, cosa mai vorrà venire a fare qui quell'uomo? E Dixon sta lavando le mie mussoline, i miei nastri, e non c'è acqua dolce per via di questi terribili venti da est che presumo avremo tutto l'anno a Milton. Il vento sta cambiando direzione, mia cara, disse il signor Hale, guardando fuori il fumo che si spostava lentamente a destra da est, solo che non distinguendo ancora i punti cardinali, li stabiliva a piacere a seconda delle circostanze. Ah, non me lo dite, disse la signora Hale, rabbrividendo e avvolgendosi ancora di più nel suo scialle. Comunque vento da est o da ovest, suppongo che quest'uomo verrà. Oh, mamma, si vede che non hai mai incontrato il signor Thornton. Ha l'aria di essere uno che si divertirebbe a combattere contro tutti gli ostacoli possibili, nemici, venti o circostanze. Più piove e c'è vento, più possiamo essere sicuri che verrà. Ma vado ad aiutare Dixon, diventerò un'impeccabile massaia. Il signor Thornton non vorrà altro passatempo che conversare con papà. Papà, muoio dalla voglia di vedere Finzia e Damone insieme. I due pitagorici siracusani che simboleggiano la fedeltà e la fiducia nella vera amicizia. Sai che l'ho visto soltanto una volta e non è stato facile trovare qualcosa da dirci, non c'è stata una grande sintonia. Non so se ti potrebbe piacere o se lo troveresti simpatico, Margaret. Non è uno che si trova a suo agio con le donne. Margaret inarcò il collo in segno di disprezzo. Non amo particolarmente i Don Giovanni, papà. Tuttavia, il signor Thornton verrà qui come tuo amico, come uno che ha stima di te. L'unica persona, Milton, disse la signora Hale. Beh, allora gli daremo il benvenuto e i dolcetti al cocco. Dixon ne sarà lusingata se le chiediamo di farne alcuni e io mi premurerò di stirare le tue cuffiette, mamma. Più volte nel corso della mattinata Margaret desiderò che il signor Thornton fosse lontano abbastanza da non venire. Aveva programmato altre cose da fare: scrivere una lettera a Edith, leggere un bel passo di Dante, andare a trovare gli Higgins. E invece finì di stirare, ascoltando le lamentele di Dixon, con la speranza che, dimostrandosi così comprensiva, potesse impedirle di andare dalla signora Hale a recitare la solita litania delle sue pene. Di tanto in tanto Margaret cercava di ricordarsi del riguardo che il padre aveva per il signor Thornton e di reprimere i sintomi della stanchezza che si stava impossessando di lei, causandole uno di quei terribili mal di testa ai quali era soggetta negli ultimi tempi. Riusciva a stento a parlare quando finalmente si mise a sedere e raccontò alla madre che aveva smesso i panni della lavandaia Peggy ed era tornata Margaret Hale. La gentildonna voleva fare una battuta e fu piuttosto contrariata per la sua linguaccia quando si accorse che la madre l'aveva presa sul serio. Sì, se quando ero la signorina Beresford e una delle bellezze della contea qualcuno mi avesse detto che mia figlia sarebbe dovuta stare in piedi per metà giornata in una piccola e angusta cucina, lavorando come una serva perché ci potessimo preparare decorosamente per ricevere un commerciante e che questo commerciante sarebbe stato l'unico. Oh, mamma! Disse Margaret alzandosi: Non essere così dura con me per delle parole dette con noncuranza. Non mi dispiace stirare o fare qualsiasi altro lavoro per te e papà. Sono anch'io nata e cresciuta come una gentildonna, anche se capita di strofinare un pavimento o lavare i piatti. Sono stanca adesso, ma è solo stanchezza passeggera. Tra mezz'ora sarò pronta a ricominciare. E quanto al signor Thornton, è nel commercio perché non può evitarlo, poveretto. Non credo che potrebbe fare molto altro con la sua istruzione. Margaret si alzò lentamente e andò in camera sua. Per il momento ne aveva abbastanza. A casa del signor Thornton, proprio nello stesso momento, aveva luogo una scena simile, eppure diversa. Una robusta signora, ben oltre la cinquantina, lavorava seduta in una sala da pranzo ben arredata, ma tetra. I suoi lineamenti, come la corporatura, non erano proprio duri, ma austeri e marcati. Il suo viso passava lentamente da un'espressione decisa a un'altra ugualmente decisa. Non c'era grande varietà nel suo aspetto, ma chi la guardava una volta, generalmente, la guardava di nuovo. Persino i passanti si voltavano per soffermarsi un attimo su quella donna ferma, severa e distinta che non si concedeva mai un gesto di cortesia per strada né una pausa lungo il percorso che si era riproposta di seguire e procedeva dritto fino alla meta. Indossava un elegante abito di spessa seta nera che non aveva neanche un filo consumato o scolorito. Stava rammendando una lunga tovaglia da tavola di ottima qualità, sollevandola di tanto in tanto verso la luce alla ricerca di zone sottili che richiedevano la sua delicata cura. In tutta la stanza non c'era un libro, fatta eccezione per i commenti alla Bibbia di Matthew Henry, di cui sei volumi si trovavano al centro di una massiccia credenza, affiancati da una teiera da un lato e da una lampada dall'altro. In qualche stanza piuttosto distante, qualcuno si esercitava al pianoforte. Stava eseguendo un morceau de salon, un pezzo da salotto di moda nell'Ottocento, suonandolo molto in fretta, con ogni terza nota in media, confusa o del tutto mancante, e con sonori accordi finali in parte stonati, ma non per questo meno soddisfacenti per l'esecutore. La signora Thornton udì dei passi decisi, come erano i suoi, fuori dall'ingresso della sala da pranzo. John, sei tu? Suo figlio, John Thornton, aprì la porta e comparve. Come mai sei a casa così presto? Pensavo che andassi a prendere il tè da quell'amico del signor Bell, quel signor Hale. Sto andando, madre. Sono tornato a casa a cambiarmi. Cambiarti? Bah, quando ero ragazza i giovanotti si accontentavano di vestirsi una volta al giorno. Per quale ragione dovresti cambiarti per andare a prendere il tè con un vecchio parroco? Beh, il signor Haley è un gentiluomo e sua moglie e sua figlia sono delle signore. Moglie e figlia, anche loro insegnano. Di cosa si occupano? Non me le hai mai nominate. No, madre, perché non ho mai visto la signora Hale, ho solo incontrato la signorina per mezz'ora. Stai attento a non farti intrappolare da una ragazzetta squattrinata, John. Oh, non è facile intrappolarmi, madre, penso che voi lo sappiate, ma non voglio che si parli della signorina Hale in questo modo. Sapete bene che per me è offensivo. Che io sappia, nessuna ragazza finora ha cercato di catturarmi e non credo proprio che qualcuna si sia mai fatta questo inutile problema. La signora Thornton si rifiutò di dar la vinta al figlio, altrimenti in generale era piuttosto benevola nei confronti delle donne. Beh, dico solo, stai attento. Può darsi che le nostre ragazze di Milton abbiano troppo carattere e troppi buoni sentimenti per andare a caccia di marito, ma questa signorina Hale viene dalle contee aristocratiche, dove, se quello che si racconta è vero, i mariti ricchi sono considerati come trofei. E il signor Thornton aveva le sopracciglia aggrottate e fece un passo avanti nella stanza. Madre, con una risatina sprezzante, me lo fate confessare. L'unica volta che ho visto la signorina Hale mi ha trattato con una cortesia così altezzosa che sapeva tanto di disprezzo. Teneva le distanze da me come se fosse stata una regina e io il suo umile sporco servo. State tranquilla. No, non sono tranquilla e neanche contenta. Che diritto ha lei, la figlia di un pastore che ha rinnegato la fede, di storcere il naso davanti a te? Io non mi cambierei d'abito per nessuno di loro. Ah, gente sfacciata. Se fossi in te, mentre usciva dalla stanza, rispose. Il signor Hale è un bravo uomo, gentile e colto. Non è sfacciato quanto alla signora Hale, vi racconterò com'è stasera, se vi interesserà ascoltare. Chiuse la porta e se ne andò. Disprezzare mio figlio. Trattarlo come il suo servo, certo, bah, vorrei sapere dove lo trova un altro così, come figlio e come uomo, è la persona più nobile, la più coraggiosa che io abbia mai conosciuto. Non mi importa se sono sua madre, riesco a vedere cos'è cosa e non sono cieca, so come Fanny e so come John. Disprezzarlo, la detesto.